fondamentalmente i paesi scandinavi, il Canada, la Nuova Zelanda e l'Australia. Io li definisco paesi particolarmente civili da questo punto di vista, perché intanto stanno dando grandi risultati, ma perché hanno capito che lo sport, oltre che risultato, successo e salute, e quindi si coinvolge tutto il sistema per garantire la pratica dello sport, e perché no, se qualcuno di questi ragazzi ha dei requisiti particolari, li possa esprimere nel tempo.